Lo Zoo di 105. Incredibile! Incredibile! Cosa? Pippo ha inventato le marchette. Bello! Spina ha inventato gli ospedali. Dona ha inventato i baresi. Sì. Senti che odore. Wenner ha inventato le vecchie. Bello. Fabio ha inventato comunismo. Paolo ha inventato la Porsche. Perché quella c'ha il grano. Marco ha inventato i froci. Pazzesco. Questi ragazzi hanno inventato lo Zoo di 105. Figa che merda di programma. A proposito di merda, ma Squall?